Sento la carrozza che torna, mormorò tutta un tratto la padrona. Diciamo brevemente che Madame Verdurin, anche a prescindere dagli inevitabili mutamenti dell'età, non assomigliava più a com'era all'epoca in cui Swann e Odette ascoltavano nel suo salotto la piccola frase. Persino quando la sentiva suonare, non era più obbligata all'espressione estatica che assumeva un tempo, già che questa, nel frattempo, era diventata il suo volto. Sotto l'azione delle innumerevoli nevralgie occasionate dalla musica di Bach, di Wagner, di Venteuil, di Debussy, la fronte di Madame Verdurin aveva preso proporzioni enormi, come gli arti che un reumatismo finisce col deformare. Le sue tempie, simili a due belle sfere brucianti, indolenzite e lattee, dove scorre perenne l'armonia, respingevano indietro, su entrambi i lati, ciocche d'argento e proclamavano, a nome della padrona e senza che lei avesse bisogno di parlare, «So cosa m'aspetta stasera». I suoi tratti non si prendevano più la briga di formulare via via impressioni estetiche troppo forti, giacché ne erano essi stessi una sorta di espressione permanente in un viso devastato e superbo. Questo atteggiamento di rassegnazione alle sempre incombenti sofferenze inflitte dal bello e di ostentazione del coraggio che c'era voluto per infilarsi un vestito quando si stava appena riprendendo dall'ultima sonata, faceva sì che Madame Verdurin serbasse, persino nell'ascoltare la più crudele delle musiche, un volto sdegnosamente impassibile e addirittura si nascondesse per inghiottire i due cucchiai d'aspirina. «Ah, eccoli!» esclamò il signor Verdurin con sollievo, vedendo che la porta si apriva su Morel, seguito dal signor di Charlus. Il barone, per il quale pranzare dai Verdurin non significava certo andare in società, bensì in un luogo malfamato, era intimidito come un collegiale che entra per la prima volta in una casa di tolleranza e ha mille riguardi per la tenutaria. Così, il suo abituale desiderio di mostrarsi virile e freddo fu vinto, nel momento stesso in cui egli faceva la sua comparsa nel vano della porta, dalle tradizionali idee di cortesia che si ridestano non appena la timidezza distrugge un atteggiamento fittizio e fa appello alle risorse dell'inconscio. Quando è in un Charlus, sia egli nobile o borghese, che agisce un tale sentimento di gentilezza istintiva e atavica verso persone sconosciute, è sempre l'anima d'una parente di sesso femminile, ausiliatrice come una dea o incarnata come un doppio, a incaricarsi di introdurlo in un nuovo salotto e di modellare il suo atteggiamento finché non giunga al cospetto della padrona di casa. Un giovane pittore, educato da una santa cugina protestante, entrerà con la testa obliqua e tremula, gli occhi al cielo, le mani abbarbicate a un manicotto invisibile, la cui forma evocata e la cui presenza reale e tutelare aiuteranno l'artista intimidito a superare senza agorafobia lo spazio brulicante d'abissi che va dall'anticamera al salottino. Così la pia parente, il cui ricordo oggi lo guida, era solita fare il suo ingresso molti anni prima e con un'aria tanto gemebonda che ci si chiedeva quale disgrazia venisse mai ad annunciare, mentre dalle prime parole si capiva, come adesso per il pittore, che era in visita di digestione. In virtù della stessa legge, la quale vuole che la vita, nell'interesse dell'atto ancora incompiuto, asservisca, utilizzi, snaturi, in una perpetua prostituzione, i lasciti più rispettabili, a volte i più santi, altre volte semplicemente i più innocenti del passato, e sebbene essa generasse, nella fattispecie, un differente aspetto, quel nipote di Madame Cottard, che addolorava la famiglia con i suoi modi effeminati e le sue compagnie, faceva sempre un ingresso gioioso, come se fosse venuto a farvi una sorpresa o ad annunciarvi un testamento a vostro favore, illuminato da una felicità di cui sarebbe stato vano chiedergli la causa, connessa com'era alla sua eredità inconscia e alla sua sessualità deviata. Camminava sulle punte, stupito lui stesso, forse, di non avere con sé un portabiglietti da visita. Tendeva la mano schiudendo la bocca a cuore, come aveva visto fare da sua zia, e il suo solo sguardo inquieto era per lo specchio, dove sembrava voler verificare, pur essendo a testa scoperta, se il suo cappello, come aveva chiesto un giorno Madame Cottard a Swann, non fosse di traverso. Quanto al signor di Charlus, cui la società nella quale era vissuto forniva in quel momento critico esempi differenti, altri arabeschi d'amabilità, insomma, la massima che in certi casi, avendo a che fare con semplici borghesucci, bisogna saper scoprire e utilizzare le proprie grazie più rare abitualmente tenute in serbo, fu, dimenandosi tutto, con fare sdolcinato e come se l'ampiezza d'una gonna avesse allargato e intralciato i suoi ancheggiamenti, che si diresse verso Madame Verdurin, con un'espressione così lusingata e onorata da far pensare che esserle presentato rappresentasse per lui un supremo favore. Il viso chinato a mezzo, dove la soddisfazione sembrava in lotta con la compunzione, gli si piegava in piccole rughe d'affabilità. Si sarebbe creduto di vedere avanzare Madame de Marsan. A tal punto risaltava in quel momento la donna che uno sbaglio di natura avesse messa nel corpo del signor di Charlus. Il barone, certo, aveva duramente faticato per dissimularlo, quello sbaglio, e prendere un'apparenza mascolina. Ma c'era appena riuscito che, avendo conservato nel frattempo i medesimi gusti, l'abitudine di sentire da donna gli dava una nuova apparenza femminile, nata questa non dall'eredità, ma dalla vita individuale. E poiché, a poco, arrivava a pensare al femminile anche i fatti sociali, e senza rendersene conto, dato che non è solo a forza di mentire agli altri, ma anche di mentire a se stessi, che si smette d'accorgersi di mentire, sebbene avesse chiesto al suo corpo di rendere manifesta, nel momento in cui entrava in casa Verdurin, tutta la cortesia di un gran signore, il suo corpo, che aveva capito benissimo quanto Charlus aveva smesso di intendere, dispiegò, al punto che il barone avrebbe meritato l'epiteto di ladylike, tutte le seduzioni di una gran dama. Del resto, si può separare completamente l'aspetto del signor di Charlus dal fatto che i figli, non assomigliando sempre al padre, anche se non sono invertiti e vanno in cerca delle donne, consumano nel loro volto la profanazione della madre? Ma accantoniamo questo argomento che meriterebbe un capitolo a parte, le madri profanate. Benché a queste trasformazioni del signor di Charlus presiedessero altre ragioni e fermenti puramente fisici facessero lievitare in lui la materia e passare a poco il suo corpo nella categoria dei corpi femminili, il cambiamento che stiamo ora osservando era però di origine spirituale. A forza di credersi malati, lo si diventa, si dimagrisce, non si ha più la forza d'alzarsi, si hanno delle enteriti nervose. A forza di pensare con tenerezza agli uomini, si diventa donne e una gonna posticcia intralcia i vostri passi. In costoro, l'idea fissa può modificare, così come in altri casi la salute, il sesso. Morel, che lo seguiva, venne a salutarmi. Sin da quel momento, a causa d'un doppio cambiamento che si verificò in lui, mi fece, ma non seppi, ahimè, tenerne conto abbastanza presto, una cattiva impressione. Ecco perché. Ho detto che Morel, sottrattosi alla condizione servile del padre, si compiaceva in genere d'una familiarità assai sprezzante. Il giorno in cui m'aveva portato le fotografie, m'aveva parlato senza dirmi una sola volta signore, trattandomi dall'alto in basso. Quale fu, nel salotto di Madame Verdurin, la mia sorpresa quando lo vidi inchinarsi profondamente davanti a me e a me solo, e sentii, prima ancora che pronunciasse altre frasi, le parole rispetto, rispettosissimo, parole che credevo impossibile trovare sotto la sua penna o sulle sue labbra usate nei miei confronti. Ebbi subito l'impressione che avesse qualche cosa da chiedermi. Prendendomi di lì un minuto da parte, il Signore mi userebbe una grande cortesia, mi disse, spingendosi stavolta sino a parlarmi in terza persona, se tenesse del tutto nascosto a Madame Verdurin e ai suoi ospiti il genere di professione che mio padre ha esercitato in casa di suo zio. Sarebbe assai meglio dire che egli era, nella vostra famiglia, l'amministratore di proprietà così vaste da essere quasi sullo stesso piano dei vostri parenti. La richiesta di Morel mi contrariava moltissimo, in quanto mi costringeva a ingrandire, oltre alla posizione di suo padre, il che mi era affatto indifferente, il patrimonio almeno apparente dei miei, cosa che trovavo ridicola. Ma avevo un'aria così infelice, così pressante, che non rifiutai. «No, prima di pranzo», mi supplicò. «Il signore ha mille pretesti per prendere da parte Madame Verdurin». Fu in realtà quanto feci, cercando il più possibile di ravvivare il prestigio del padre di Morel, senza troppo esaltare il tenore di vita e i beni al sole dei miei parenti. La cosa andò liscia, malgrado lo stupore di Madame Verdurin, che aveva conosciuto vagamente mio nonno. E poiché non aveva tatto e odiava le famiglie dissolutrici del piccolo clan, dopo avermi detto che una volta aveva visto il mio bisnonno e avermene parlato come di una specie di idiota che non avrebbe capito nulla del piccolo gruppo e che secondo la sua espressione non era dei nostri, osservò: «Del resto sono così noiose le famiglie, non si desidera altro che uscirne». E passò subito a tratteggiarmi un aspetto del padre di mio nonno che ignoravo, sebbene in casa avessi sospettato, non l'avevo conosciuto, ma si parlava molto di lui, la sua rara avarizia, opposta alla generosità un po' troppo sfarzosa del mio prozio, amico della dama in rosa e padrone del padre di Morel. «Se i vostri nonni avevano un amministratore così chic, vuol dire che nelle famiglie c'è proprio gente di tutti i colori. Il padre di vostro nonno era così avaro che, quasi rimbambito alla fine dei suoi giorni, detto tra noi, non è mai stata una cima, voi li riscattate tutti, non si rassegnava a spendere 3 soldi per l'omnibus. Così erano costretti a farlo seguire, a pagare di nascosto il conducente e a far credere al vecchio spilorcio che il suo amico signor di Persigny, ministro di Stato, gli avesse concesso il diritto di circolare gratis sugli omnibus. Del resto sono molto contenta che il padre del nostro Morel fosse una persona così distinta. Credevo che fosse professore di liceo, non importa, avrò capito male. Conta ben poco comunque, perché vi dirò che qui da noi apprezziamo solo il valore individuale, il contributo personale, ciò che io chiamo la partecipazione, a patto che si sia artisti, a patto, in una parola, che si sia dei nostri. Il resto ha poca importanza». Morel lo era, a quanto ho potuto apprendere, nel senso che gli piacevano abbastanza le donne e gli uomini per recare piacere a ciascun sesso col supporto di quanto aveva sperimentato sull'altro. È ciò che vedremo più tardi. Ma la cosa essenziale da riferire ora è che, non appena gli ebbi dato la mia parola di intervenire presso Madame Verdurin, e soprattutto non appena lo ebbi fatto e senza possibilità di tornare indietro, il rispetto di Morel nei miei confronti svanì come per incantesimo. Le formule rispettose sparirono e per qualche tempo mi evitò addirittura, affettando di disdegnarmi, così che se Madame Verdurin mi pregava di dirgli qualcosa, di chiedergli un certo brano musicale, lui continuava a parlare con un fedele, si rivolgeva a un altro, cambiava posto se andavo verso di lui. Erano costretti a dirgli anche 3 o 4 volte che gli avevo rivolto la parola, dopodiché mi rispondeva in tono forzato, brevemente, a meno che non fossimo soli. In questo caso era espansivo, amichevole, perché il suo carattere non mancava di tratti affascinanti. Non di meno, da quella prima sera conclusi che la sua natura doveva essere vile, che non indietreggiava all'occorrenza davanti a nessuna bassezza e ignorava la riconoscenza. In questo assomigliava alla generalità degli uomini, ma siccome avevo in me qualcosa di mia nonna ed ero attratto dalle diversità degli uomini senza aspettarmi niente da loro e senza volergliene, trascurai la sua bassezza. Fui lieto del suo buon umore quando questo si manifestò, nonché di quella che ritengo essere stata da parte sua una sincera amicizia quando, compiuto tutto il giro delle sue false conoscenze della natura umana, Si rese conto, a soprassalti, giacché aveva strane ricadute nella sua barbarie primitiva e cieca, che la mia dolcezza nei suoi confronti era disinteressata, che la mia indulgenza non era dovuta a scarsa chiaroveggenza, ma a ciò che egli volle chiamare bontà, e soprattutto mi innamorai della sua arte, che non era in sostanza più d'un mirabile virtuosismo, ma mi faceva riascoltare o conoscere, senza che egli fosse, nel senso intellettuale del termine, un vero musicista, tanta bella musica. D'altronde, un manager, il signor di Charlus, di cui ignoravo questi talenti, sebbene Madame de Germont, che l'aveva conosciuto assai diverso nella loro giovinezza, sostenesse che le aveva scritto una sonata, dipinto un ventaglio, eccetera. Un manager modesto in ciò che riguardava le sue vere superiorità, ma di prim'ordine. Seppe mettere tale virtuosismo a servizio d'un senso artistico molteplice e che egli decuplicò. Si pensi a un artista abile e niente più, dei balletti russi, arricchito di stile, istruito, sviluppato in ogni senso da Diaghilev,